Buonasera cari radioascoltatori, benvenuti ad un'altra puntata di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9, in onda ogni giovedì sera dalle 21 alle 22. Un saluto da Annalisa in studio e un saluto a Giulio in regia. Grazie Giulio per il supporto di questa sera. Buonasera. E in collegamento Alessandra. Ciao Alessandra. Ciao Annalisa, buonasera cari amici radioascoltatori e ovviamente grazie Giulio per il supporto tecnico di questa sera. Dunque Alessandra, un giro di boa anche questa sera al passo con l'attualità. Sì, esatto, come sempre, tu dicevi bene prima, Giro di Boa, un programma di dibattito e approfondimento, dunque non può essere che al passo con l'attualità. E questa sera discuteremo con l'ospite in collegamento della questione del velo islamico integrale e non nelle società occidentali. Da anni l'argomento torna periodicamente d'attualità. Questa volta il dibattito si è riacceso in seguito al rapporto presentato 2 giorni fa dalla commissione di studio istituita dal Parlamento francese, la quale, dopo 6 mesi di lavori, ha raccomandato che il velo islamico, che copre integralmente il volto delle donne, sia vietato in tutte le scuole, ospedali, trasporti pubblici e negli uffici statali sul territorio della Repubblica francese. Il burqa, conclude il rapporto, offende i valori nazionali della Francia. Le conclusioni della Commissione suggeriscono il varo di una norma, di una legge, che vieti il burqa negli esercizi e nei servizi pubblici, ma attenzione, non estende questo divieto a tutti gli spazi pubblici, in quanto vi è assenza di unanimità su un aspetto così importante. Con l'ospite questa sera cercheremo di capire che cosa rappresenta e che cos'è il velo per i musulmani e per i non musulmani, e analizzeremo poi come questo viene percepito nelle nostre società. Annalisa, ci vuoi presentare l'ospite? Sì, Alessandra, dunque abbiamo in collegamento questa sera Giuliana Sgrena. Giuliana, ci sente? Sì, sento. Buonasera a tutti. Buonasera. Giuliana Sgrena è giornalista e inviata de Il Manifesto in Iraq, Somalia, Palestina, Afghanistan e Algeria. Ha collaborato anche con Rai News 24, il settimanale tedesco di Zeit, la radio svizzera italiana e diverse riviste di politica internazionale. Ha pubblicato anche diversi libri, tra cui Il prezzo del velo nel 2008, Alla scuola dei Taliban nel 2002, Il fronte Iraq, diario da una guerra permanente. Dunque, Giuliana, benvenuta, buonasera e benvenuta a Giro di Boa. Buonasera. Io, Giuliana, partirei subito con una domanda. Una domanda: da dove deriva e qual è la storia del velo integrale e non? La mia domanda si riallaccia a quello che è successo lo scorso ottobre al Cairo, quando l'imam Mohammed Said Tantawi, come probabilmente lei saprà, grande imam dell'università egiziana al Khazar, ha fatto togliere ad una studentessa il velo islamico integrale, adducendo il fatto che il velo integrale è un'usanza tribale che non ha niente a che vedere con l'Islam. Ovviamente questa dichiarazione ha aperto un'accesa discussione all'interno del mondo musulmano, anche perché l'Ateneo in questione rappresenta la massima autorità religiosa dell'Islam sunnita nel mondo. Dunque c'è magari una non comprensione rispetto a che cos'è il velo e da dove viene il velo. C'è una grande mistificazione su quello che è il velo, perché molti tendono anche in Europa ad accreditarlo, oppure temono di avere ripercussioni se pongono dei divieti per l'uso del velo, velo integrale o non integrale, perché pensano che questa sia un'osservanza religiosa. In effetti nel Corano non c'è nessun punto in cui si impone alle donne di portare il velo. Ci sono dei riferimenti a dei veli che devono portare le donne del profeta, che devono essere separate da una tenda quando parlano con altri uomini, eccetera. Ma si parla delle donne del profeta e non si parla delle donne in generale. Per le donne in generale si parla solo in alcuni punti che devono coprire i seni, cose di questo tipo, che è una cosa molto generica e che non si riferisce assolutamente all'uso del velo, che invece si tende ad accreditare da parte di degli fondamentalisti dell'Islam. Infatti solo nel XIV secolo si comincia ad imporre alle donne l'uso del velo, però su questo c'è una grande mistificazione, quindi si tende ad accreditare il velo come un'osservanza religiosa dovuta, invece non è assolutamente questo. Chi porta il velo vuol dire che vuole manifestare una propria appartenenza a una certa interpretazione dell'Islam, che è un'interpretazione fondamentalista, e questa vale per qualsiasi tipo di velo, e a maggior ragione per il velo integrale. E ha ragione il Gran Mufti di Al-Azhar dicendo che questa del velo integrale è un'usanza che non ha nulla a che vedere con la religione. Giuliana stava parlando di scusa Alessandra, ti ho interrotta, ma volevo chiedere a Giuliana se poteva parlare e spiegare ai nostri radioascoltatori quali sono i diversi tipi di velo di cui stiamo parlando. Sì, il velo di cui si parla in questo momento e che è in discussione in Francia è il burqa e il niqab. Il burqa è il velo che forse tutti ricorderete, perché è il velo che era stato imposto dai talebani in Afghanistan, ed è quel velo integrale che lascia all'altezza degli occhi una piccola gratta che ti fa vedere il mondo a quadretti, e per il resto la donna è tutta coperta. Il niqab invece della rete all'altezza degli occhi lascia una piccola fessura per permettere alla donna di vedere dove mette i piedi. E questo è il velo di cui si parla oggi, però per esempio la Francia già nel 2005 aveva varato una legge che impediva l'uso dei simboli religiosi nelle scuole, e quindi aveva vietato anche l'uso del velo, quello che normalmente si chiama hijab, che è un velo che copre invece solo i capelli, e che in alcuni casi comprende, oltre al velo che copre i capelli, anche una specie di tunica che copre tutto il corpo della donna. Però io penso che, appunto, nonostante ovviamente la diversità del tipo di velo provoca delle reazioni diverse, e sono meno le donne ovviamente che portano il niqab o il burqa, che sono questi veli integrali che non fanno vedere nessuna parte del corpo della donna. Però dietro a tutti i veli c'è un significato unico, che è quello, secondo me, comunque simbolicamente dell'oppressione della donna, della discriminazione della donna, perché in qualche modo la ritiene la responsabile dell'onore del maschio. La donna, secondo le interpretazioni che vogliono imporre alla donna il velo, la donna deve coprirsi quelle parti che possono provocare l'uomo, provocare il maschio, e quindi si deve coprire i capelli, ma non è solo coprirsi i capelli, si deve abbassare lo sguardo, non deve alzare la voce, non deve fare rumore quando cammina, e quindi anche quando si porta un semplice velo, questo velo ha con sé tutti questi significati: il mantenimento dell'onore, la donna deve mantenere l'onore per il maschio, e se poi è il maschio comunque a infrangere questo onore per qualsiasi motivo o senza motivo, è sempre la donna che paga questo onore, e l'onore del maschio, l'onore della famiglia, del marito, dei fratelli, eccetera, con il delitto d'onore. Quindi dietro il velo c'è un grande significato simbolico, che è quello dell'onore, e questo secondo me è quello che bisogna chiarire. Non è tanto una questione religiosa, ma una questione d'onore. Prima di tornare sul concetto dell'oppressione, della discriminazione della donna, qui senz'altro torneremo in seguito, volevo dare alcune cifre su appunto questa vicenda francese, in cui a quanto pare le donne in Francia che si coprono con il burqa sono circa 2000 le donne, mentre i membri della commissione parlamentare che appunto ha appena redatto il rapporto dice che in ogni caso non è una questione di numeri, ma come giustamente sottolineava prima Giuliana, è una questione di principio, quello di essere contrari o meno al velo integrale. Sempre i membri della Commissione infatti hanno sottolineato il fatto che anni fa in Francia non vi era nessun esempio di burka. Già l'anno scorso si parlava circa di 400 donne e oggi siamo arrivati a circa 2000, dunque è un fenomeno che è in crescita ed è per questo che si è pensato di cercare di arginarlo o comunque di combatterlo. Giuliana, cosa ne pensa di questa iniziativa, di questo rapporto che, come dicevo prima nell'introduzione, non ha, per il momento è solo un rapporto, dunque non abbiamo nessun vincolo legislativo. Secondo lei il Parlamento francese riuscirà a produrre qualcosa in questa direzione? Io ho partecipato recentemente a un dibattito in Francia sul burka, al quale hanno partecipato anche diversi esponenti dei partiti politici francesi della sinistra, c'erano esponenti socialisti, non solo socialiste, e poi c'erano esponenti di associazioni di donne che provenivano dai paesi musulmani, c'era una yemenita, c'era una sudanese, la sudanese che è stata condannata alle 40 frustate perché portava i pantaloni, c'era un'algerina, e devo dire che tra le francesi c'era molta, diciamo così, resistenza ad approvare una legge che impedisse il burka. Peraltro io ho trovato questa cosa abbastanza strana, perché mentre c'era stata più unanimità nell'approvazione della legge contro i simboli religiosi, forse perché non individuava un simbolo specifico di una religione, ma rispetto al burka c'era un po' più di, io lo chiamo relativismo culturale, che è quello che fa dire ma forse se una donna sceglie di portare questo velo. Io francamente che ho vissuto molto a contatto con le donne musulmane, ho vissuto per parecchio tempo, non di seguito, ma insomma diverso tempo in Afghanistan, e ho seguito la vicenda delle donne afghane sia durante il periodo dei Taliban che dopo, difficilmente mi riesce credibile che una donna scelga, soprattutto se vive in Occidente, di portare il burka, perché è proprio una cosa tremenda che non ti fa respirare, che non ti fa vedere dove metti i piedi, che ti fa inciampare, così. Quindi pensare che una donna liberamente possa scegliere di portare il burka nel niqab in Occidente non mi risulta credibile, e quindi penso che forse una forzatura in un paese come la Francia. La Francia è un paese laico, è la culla del diritti universali, quindi forse non una legge che impone il divieto del burka e del niqab, ma qualche misura che cerchi di aiutare queste donne a liberarsi di questo orribile fardello, perché io penso che in discussione non siano tanto i valori della Repubblica Francese. Certo, sono i valori della Repubblica Francese, se consideriamo come valori della Repubblica Francese i valori universali, quelli che arrivano dalla Rivoluzione Francese, ma altrimenti non è tanto i valori, è la dignità della donna che è in ballo quando si parla di burka e di niqab, perché una donna che viene esclusa perché viene separata dal mondo che la circonda con dei veli, con una copertura totale, vuol dire che questa donna non ha nessuna possibilità di relazionarsi col mondo che la circonda, di comunicare con l'esterno, anche quando esce è come se rimanesse chiusa dentro le quattro mura di casa, e io penso che questo sia inaccettabile per chiunque, per chiunque sia, viva in una civiltà, viva in un paese civilizzato, e quindi secondo me questo è il punto. Poi sulla legge io penso che in alcuni casi servano anche le forzature. Certo, la Francia è un paese laico, in Italia parlare di legge contro il velo, contro il burka, è quasi impensabile, perché siamo troppo permeati da valori religiosi cattolici, da persino superstizioni religiose, quindi è più difficile, però forse la Francia potrebbe prendere delle misure, anche senza fare una proibizione totale del burka. Infatti non si parla di proibizione totale, si parla di proibire questa copertura totale in alcune situazioni, cose che per esempio per noi in Italia dovrebbe già essere in vigore, perché abbiamo una legge che impedisce di andare in giro col volto coperto, ma anche a noi italiani, quindi Io penso che serva molto buon senso, però se si tiene presente qual è il punto che sta alla base di questa discussione, cioè la dignità della donna e la salvaguardia dei diritti delle donne, perché altrimenti questo discorso può essere mistificato. Giuliana, il rapporto però sottolinea anche che come una legge di questo tipo sollevi delle questioni giuridiche complesse, perché leggo dal rapporto una limitazione, perché comporta una limitazione dell'esercizio di una libertà fondamentale, la libertà di opinione nella totalità dello spazio pubblico. Quindi ci potrebbe essere un rischio di censura da parte del Consiglio Costituzionale o anche una condanna da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Ecco, che cosa ne pensa di questo aspetto? Ecco, io mi chiedo però se si può considerare libertà di espressione il fatto che una donna metta il burka, che è la negazione della libertà di espressione, perché una donna col burka viene esclusa dalla società. Allora, su questo secondo me bisognerebbe ragionare, perché prendere tout court così il fatto che si impedisce il burka e questo rappresenta una violazione di espressione, cos'è la violazione di espressione? L'espressione innanzitutto è comunicazione. Se una donna non può comunicare perché col burka non può comunicare, allora di quale libertà di espressione si parla? È tutto molto discutibile questo. Io penso che il burka sia la negazione della libertà di espressione, perché una donna non ha un volto, non ha una voce, non si riconosce. Una donna che passa ad alcune frontiere vestita così non ha neanche un'identità, è il marito che garantisce per lei la sua identità. Ma io ho conosciuto donne, appunto, che sono passate alla frontiera e siccome non potevano uscire perché avevano dei problemi, il proprio paese non voleva farlo uscire, mettevano il burka e uscivano. Quindi di che libertà stiamo parlando? È esattamente l'opposto della libertà questo. Quindi anche se certo potrebbero esserci dei problemi giuridici, però bisogna dimostrare che questa non è libertà di espressione, è la negazione della libertà di espressione. Ci sono state ovviamente alcune opposizioni a questo rapporto che è stato reso pubblico in Francia 2 giorni fa. Mi riferisco per esempio a quella di uno dei ministri del governo di Sarkozy, il quale dice che secondo lui una legge che impone e vieta il burka potrebbe essere di difficile applicazione, in quanto lui sostiene che le forze dell'ordine si troverebbero poi nella condizione di dover far applicare questa legge nelle banlieue parigine, dunque nelle periferie delle grandi città come per esempio Parigi, ma anche Marsiglia, eccetera, nelle stesse città, ma anche e soprattutto sulle Champs-Élysées, questa famosa strada parigina dove ci sono numerosi negozi, dove importanti uomini d'affari e VIP fanno grandi acquisti, e dove, non nascondeva questo ministro, molto spesso ci sono molte donne provenienti dal Medio Oriente che anche fanno acquisti di un certo rilievo. Dunque si parla di personalità famose o comunque molto note o conosciute. Lei, Giuliana, come risponde a questa difficoltà di far rispettare eventualmente una legge? Sì, questo ovviamente è un paradosso, succede anche a Roma, a me è capitato presso un famoso parrucchiere romano, e arrivano le donne arabe, le donne dai paesi del Golfo che vengono a farsi la tinta a Roma durante il loro giro di acquisti nelle capitali europee, e però non possono farsi toccare da un maschio, eccetera, però vengono dai maggiori parrucchieri, da quelli più alla moda, per farsi fare i capelli, eccetera. Quindi ci sono una serie di contraddizioni enormi. Io penso che ovviamente ci voglia un po' di buonsenso adesso applicare la legge. Certo, se si pensa che per esempio queste donne non si scopriranno mai davanti a un uomo, è chiaro che un poliziotto non riuscirà a far osservare questa legge a una donna se questa donna non si vuole scoprire. Io penso che innanzitutto il primo problema è quello di non fare diventare queste donne doppiamente vittime, perché secondo me sono vittime comunque del fatto che viene loro imposto questo velo. Non è detto che venga imposto con la forza, può essere anche imposto semplicemente con la convinzione, con la mistificazione che questa è un'osservanza dell'Islam, quindi non deve essere per forza la, una violenza bruta che dice tu ti metti il burka altrimenti non esci di casa, può essere anche solo convincerle che quella è la loro tradizione, loro si devono vestire così, non si devono far vedere eccetera. E poi se poi trovano il poliziotto oppure si trovano di fronte a una legge che le penalizza ulteriormente perché portano quel velo e sarebbero doppiamente vittime. Io penso che questo si debba assolutamente evitare, perché se io difendo la dignità della donna difendo anche la donna che sta sotto un velo, sotto un burka, perché non posso dimenticare che quella comunque è una donna con una sua personalità. Allora se io la difendo non posso pensare che debba subire delle violenze continue. Per applicare queste leggi, certo, bisogna, intanto non ci sono ancora le leggi, ma penso che dovrebbero essere soprattutto degli orientamenti che portino a un certo comportamento e non delle leggi così rigide che impongono al poliziotto di strappare il velo a una donna o cose di questo tipo, perché questo provocherebbe solo delle reazioni contrarie. Bisogna fare in modo che ci sia un convincimento. Io peraltro sono convinta che questo vale non solo per le donne ma per tutti i migranti che vivono nei nostri paesi. Se noi vogliamo far osservare le nostre leggi, se noi vogliamo imporre dei doveri a queste persone, dobbiamo garantire però anche tutti i diritti. Finché non godranno di tutti i diritti è difficile non imporre dei doveri. Quindi innanzitutto dovremmo cercare di integrare, di fare accettare la nostra non la nostra cultura, perché io rispetto la loro cultura, ma di fare accettare le nostre leggi, alcune regole di vita comune, ma attraverso l'affermazione di diritti, altrimenti se si impongono solo dei doveri, questi non avranno, non sarà facile, voglio dire, sarà controproducente, provocherà una reazione contro. Facciamo ora una pausa musicale di qualche minuto e ritorniamo in onda. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera stiamo commentando le conclusioni le conclusioni tratte da uno studio condotto in Francia da una commissione parlamentare che ha considerato se la Francia debba o meno vietare il burka e il niqab nei luoghi pubblici. Questa commissione di studio istituita dal Parlamento francese ha raccomandato che il velo islamico che copre interamente il volto delle donne sia vietato in tutte le scuole, gli ospedali, i trasporti pubblici e negli uffici statali. Questo perché il burka offende i valori nazionali della Francia. Ne stiamo parlando con la nostra ospite in collegamento questa sera, Giuliana Sgrena, giornalista e inviata de Il Manifesto in Iraq, Somalia, Palestina, Afghanistan e Algeria, e ha scritto tra l'altro diversi libri sul tema. Sì, Annalisa, io avrei una domanda. In opposizione alla tesi anti-velo, molti musulmani rispondono che l'esigenza di velare il corpo femminile è diffusa in molte, se non in tutte le culture del Mediterraneo. E dunque anche il cristianesimo conserva in parte, come ben noi sappiamo, la simbologia del velo. Per esempio, ancora oggi le suore portano un velo che nasconde completamente i capelli. Ancora oggi la sposa cristiana indossa un velo, simbolo di purezza e di castità. Giuliana, per noi il velo è purezza e castità? Quando lo indossa una sposa cristiana, quando lo vediamo indossato da delle donne musulmane, pensiamo ad oppressione e discriminazione, forse abbiamo lo vediamo in maniera diversa? C'è ormai un uso del velo anche nei matrimoni che veramente non ha più niente a che vedere con il velo che si portava una volta. Il velo viene portato su abiti scollatissimi, eccetera, quindi voglio dire, ormai è solo una moda, è solo un modo di porsi. In chiesa non si porta più il velo. E comunque è vero che, io se mi ricordo, mia bisnonna aveva sempre un fazzoletto in testa, ma era più che altro una tradizione, ma le tradizioni si evolvono, si superano, altrimenti saremmo ancora a difendere tutti la pena di morte o cose di questo tipo. Quindi io non vedo questa grande difesa del velo nella religione cattolica. Appunto, se non si porta più quando si va in chiesa, si è molto diminuito nella religione cattolica il simbolismo del velo. Certo, poi le spose, però si diceva una volta che le spose che non potevano mettere il vestito bianco se non erano vergini, eccetera eccetera, queste cose sono tutte ampiamente superate, e quindi io non penso che si possa dire oggi che per noi il velo, per i cattolici il velo ha un valore di un certo tipo, mentre lo condanniamo quando, anzi, sono proprio i cattolici quelli che difendono l'uso del velo anche da parte delle donne islamiche. Più c'è un'interpretazione fondamentalista della religione, qualunque sia la religione, c'è una difesa delle espressioni più integraliste anche da parte di altre religioni. Quindi ho visto a volte difendere il codice della famiglia di paesi musulmani da parte di esponenti cattolici integralisti, perché ovviamente la repressione della donna, la discriminazione della donna non è una priorità solo per la religione islamica, ma è di tutte le religioni. In tutte le religioni le donne sono discriminate, quindi a parte il velo, ma anche il velo è stato un simbolo un po' per tutte le religioni, a parte questo però la discriminazione delle donne vale appunto per tutte le religioni. Quindi io non penso che ci sia un effetto contrario, cioè nella religione cattolica il velo è un simbolo da apprezzare, mentre gli stessi considerano il velo islamico da disprezzare. È possibile, secondo lei, Giuliana, portare il velo in Europa per scelta? Nel senso che per scelta autonoma mi riferisco, per esempio come ricerca o rivendicazione di identità, oppure per distinguersi, oppure per scoprire o riscoprire un senso di appartenenza, oppure è sempre e solo imposizione? No, non è sempre solo imposizione. Io penso che ci sia un velo ideologico, cioè quello che risponde a un'appartenenza, a una certa visione dell'Islam, che sia anche una scelta anche nei paesi musulmani, e questo succede anche in Europa. A me è successo quando mi scusi, lei dice una scelta, dunque una scelta con cognizione di causa. Io dico, nella maggior parte dei casi non è una scelta, però quando il velo è portato con una come scelta di un'appartenenza ideologica, per esempio a un movimento religioso fondamentalista, allora è una scelta. Io ho incontrato molte donne, anche di quelle che adesso vengono così chiamate le femministe islamiche, che quelle che portano il velo e difendono tutte le discriminazioni delle donne nei vari settori, difendono la poligamia, difendono il fatto che la donna abbia metà dell'eredità di quella del maschio, eccetera, ma lo fanno su una base ideologica. Loro difendono quei movimenti che difendono quelle scelte, quindi sono consapevoli. E anche in Europa io stessa ho incontrato delle ragazze in Gran Bretagna che portavano il velo, e un velo abbastanza, non era certo il burqa o il niqab, ma era un velo abbastanza coprente, abbastanza pesante, ed erano tra l'altro militanti di un movimento della sinistra, e io ho chiesto loro perché portavano questo velo, partendo dal fatto che loro provenivano da famiglie di origine pakistana oppure tunisina, di diversi paesi, ma nessuna delle loro madri portava il velo. E allora ho chiesto loro perché portavano il velo, e loro mi hanno detto che portavano il velo perché dopo il 2001, con il diffondersi nell'Occidente di un sentimento di islamofobia, loro avevano deciso di affermare, di rendere evidente, esplicita la loro appartenenza all'Islam. E quindi ho chiesto loro se per loro la religione era più importante della loro militanza in un partito, eccetera, mi hanno detto che per loro la religione era la cosa più importante. Naturalmente questo mi ha fatto riflettere, perché se io posso capire una donna che non ha nessun altro impegno e quindi pensa che la religione sia la cosa più importante, ma se una ragazza giovane, militante, impegnata, peraltro io ho chiesto loro se si sentivano in qualche modo in Gran Bretagna discriminate, oppure se si sentivano di essere delle cittadine di serie B, loro mi hanno detto che assolutamente no, si sentivano cittadine a pieno titolo, anzi proprio in nome della libertà che garantisce la Gran Bretagna loro si mettevano il velo. E allora mi sono resa conto che per loro l'appartenenza alla comunità dei credenti, alla comunità dell'Islam, era più importante di qualsiasi altra cosa. E questo effettivamente è, per chi è laico, non credente, è un problema, perlomeno questo ci fa interrogare soprattutto perché è così forte, che appilla questa appartenenza a un mondo musulmano, e la PIL secondo me deriva dal fatto anche che è un'appartenenza che supera i confini, no? Perché questo è un mondo, e questo dell'Islam globale è una cosa che va oltre i confini e che quindi ha anche una potere di attrazione proprio per questo motivo, e che si oppone in qualche modo alle altri tipi di globalizzazione. Però questo vuol dire che questa appartenenza all'Islam è molto più forte di, non so, la militanza in un altro movimento no global che non sia religioso, e quindi bisogna tenere presente che in questo momento c'è questo potere, questa forza di attrazione, questa necessità oppure voglia di appartenenza che ti fa rendere la religione più importante di qualsiasi altro valore oppure altro movimento politico. Quindi questo esiste sicuramente anche in Europa, soprattutto in Europa. Forse, come diceva una mia amica algerina, è più facile parlare contro il velo, parlare contro queste cose nei paesi musulmani che non in Europa, perché nei paesi musulmani le donne stanno lottando per l'affermazione dei loro diritti e contro, per esempio, contro una visione della religione che investe anche il politico, mentre in Occidente è quasi come se ci fosse un'inversione di tendenza. Giuliana, le vorrei chiedere qual è la situazione negli altri paesi europei. Leggo che la prospettiva di vietare il velo integrale è allo studio, oltre che in Francia, in altri paesi come la Danimarca e i Paesi Bassi. Che cosa ci può dire a riguardo? Io penso che questo dibattito sia molto più avanzato in paesi che hanno avuto una politica rispetto alla migrazione. Certo, io per esempio vedo difficile una cosa del genere in Gran Bretagna per la politica sulla migrazione che ha sempre avuto, che è una politica che cerca di valorizzare il comunitarismo e quindi di creare delle comunità separate, mantenendo i loro costumi, la loro cultura, e quindi senza intervenire nel merito delle scelte. Penso che sia più facile invece, per esempio, nei paesi del nord Europa, dove c'è un'integrazione di altro tipo. Non conosco esattamente il livello di dibattito che c'è in Danimarca e nei Paesi Bassi, però penso che in quelle situazioni sia più facile, se non passare una legge, almeno passare delle dichiarazioni, delle cose che portino a diminuire l'uso di queste, del velo integrale. In Italia, per esempio, abbiamo diverse proposte di legge, ma in Italia il dibattito è molto difficile perché è stato capeggiato soprattutto dalla destra anti-immigrazione, quindi viene letto un po' come una forma di reazione che ha dei connotati quasi razzisti, perché non vuole vedere nessuno che abbia degli usi e dei costumi diversi dai nostri. E la reazione della sinistra rispetto a questo è molto timida e quindi ha paura di fare qualsiasi cosa che possa in qualche modo essere tacciata di razzismo, di antireligioso, di anti multiculturale, eccetera. Quindi da noi il dibattito è molto arretrato, anche perché non abbiamo una politica sulla migrazione. I problemi che riguardano la migrazione sono sempre stati visti solo in termini o umanitari nei migliori dei casi, oppure di sicurezza, e quindi in forma repressiva, e quindi rischierebbe un qualsiasi divieto di essere visto come una misura repressiva. Però in altri paesi dove appunto la questione è stata affrontata in termini un po' più laici, oserei dire, penso che delle misure, non tanto delle leggi, ma delle misure per sconsigliare l'uso di veli così limitanti nella vita della donna, penso che sia possibile. Ho trovato nel frattempo da qualche articolo alcune informazioni a riguardo per i nostri radioascoltatori. Leggo che nei Paesi Bassi sono allo studio diversi progetti di legge sul divieto del niqab e del burka, in particolare nel settore dell'istruzione pubblica e dei servizi amministrativi. In Danimarca il governo conservatore sta discutendo l'opportunità di limitare l'uso del velo integrale negli spazi pubblici, a scuola e nei tribunali. Dunque, un'ultima battuta prima di... Sì, se posso dire una cosa, queste cose che a noi sembrano così paradossali, per esempio anche in Marocco o in Algeria o in altri paesi, se si vogliono esercitare certi tipi di professioni è vietato il velo. Quindi per esempio se in Marocco si vuole lavorare nel settore del turismo così non si può portare il velo, quindi non è solo una cosa che avviene nei nostri paesi, avviene anche nei paesi musulmani, e quindi per esempio sui libri di scuola il re del Marocco ha vietato che venga rappresentata, che qualsiasi donna venga rappresentata col velo, perché questo indurrebbe il bambino a credere che le donne devono portare il velo. Quindi insomma sono delle cose che si discutono anche nei paesi musulmani, non solo da noi. Un'ultima battuta, dicevo prima, Giuliana, prima di salutarci e di ringraziare per la partecipazione a Giro di Boa, volevo chiedere un commento su quanto detto dal segretario di Stato americano Hillary Clinton all'apertura della conferenza di Londra per l'Afghanistan avvenuta oggi. Hillary Clinton, annunciando il piano USA per le donne in Afghanistan, ha dichiarato: le donne sono un tesoro di talento inespresso e non sfruttato di cui la società afghana ha assolutamente bisogno. Lei immagino si trova pienamente d'accordo con questa dichiarazione. Sì, però su questo bisogna anche essere concreti e conseguenti, perché in Afghanistan, dopo la caduta dei Taliban, le donne hanno preso molta iniziativa, hanno cercato di affermarsi. Io mi ricordo che l'ipocrisia totale era stata quella di dire che si andava in Afghanistan a fare una guerra per liberare le donne dal burka, cosa che intanto non si è verificata e non era assolutamente nelle intenzioni di chi andava a fare una guerra, anche a venire militarmente. Ma comunque le donne, dopo la caduta dei Taliban, hanno cercato di liberarsi dal burka, anche se non è stato facile e tuttora non è avvenuto. Certo, a Kabul molte donne non portano più il burka, portano un velo molto più soft, anche in altri posti. Però insomma loro hanno cercato di darsi da fare per ottenere uno spazio nella vita politica, perché hanno una quota del 25% nella Loya Jirga, anche se questo non vuol dire che poi le donne sono rispettate. Una deputata è stata buttata fuori, ma malo modo dalla Loya Girgo, che è il Parlamento, ed è stata maltrattata dentro lo stesso Parlamento, quindi bisognerebbe poi premurarsi di far rispettare i diritti delle donne in quel paese, non solo fare dichiarazioni, anche se le dichiarazioni ovviamente sono importanti per dare un'indicazione. E poi mi raccontava una ministra delle donne afghana che quando si tratta di fare i progetti, di fare investimenti, di approvare il budget, spesso i soldi vengono dall'estero, non sono donatori stranieri, per le donne, per il Ministero delle Donne non c'è mai un soldo, quindi io penso che i paesi donatori, i paesi che si impegnano rispetto all'Afghanistan, dovrebbero promuovere i diritti delle donne non solo con le quote in Parlamento, ma anche finanziando i progetti per le donne, perché ci sono molte donne valide che sono pronte a investire, a realizzare dei progetti importanti. Annalisa, non ci resta che chiudere. Non ci resta che chiudere e ringraziare Giuliana Sgrena per essere intervenuta questa sera a Giro di Boa e per il suo interessante contributo. Un grazie dalla redazione grazie qui a Bruxelles. Un grazie e soprattutto un buon lavoro, ovviamente. Grazie e buon lavoro anche a voi, naturalmente. A risentirci. Buon lavoro, a risentirci. A risentirci. E Alessandra, siamo giunti alla chiusura, alla fine di questa puntata di Giro di Boa e non ci resta che innanzitutto ringraziare Giulio per il supporto di questa sera, grazie Giulio, e non ci resta che dare appuntamento ai nostri radioascoltatori a giovedì prossimo. Esatto, come sempre su Radio Alma, Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sull'attualità italiana ed europea. Dunque Annalisa, buona serata a te e buona serata a Giulio e a risentirci la prossima settimana. A risentirci.